Incontri di Gianfranco Fabi. La voce di Mina e le parole del Magnificat. Con questo iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a Don Virginio Colmegna. Buongiorno. Don Virginio Colmegna, responsabile della Carità di Milano, torneremo tra poco, ma iniziamo con questa domanda. Il Magnificat, che cosa le ricorda? È un canto certamente per me significativo, anche per una grossa esperienza di vita, perché carico di ringraziamento. E nel libro mi ricorda una persona straordinaria che io cito, che era una professoressa che ci ha accompagnato in tantissime esperienze di vita e che quando ci ha lasciato per un male incurabile, ecco, volle il Magnificat e l'ho accompagnata col Magnificat e quello è entrato. Ci sono certi momenti nella vita dove entrano alcune parole che di solito dici con l'abitudine, quando entri in relazione con certi eventi, certe volte ti ritorna il grande significato di certe preghiere, di certe invocazioni, certi inni che continuamente magari ripeti quotidianamente. Il libro è Non per me solo, esatto. Non per me solo, di Don Virginio Colmegna, vita di un uomo al servizio degli altri, racconto dei primi 60 anni di vita di Don Colmegna, o meno forse. No, sono di più, ormai siamo vecchietti. Comunque, ecco, il racconto di questa vita fatta e segnata un po' dall'incontro e dalla vocazione. Sì, il libro più che un'autobiografia, lo dico davvero, è un modo che mi ha fatto riscoprire l'incontro con gli altri come un grande dono per me. È un ringraziare l'incontro con le persone, soprattutto anche quelle fragili che hanno segnato molte delle vicende della mia vita, che ho vissuto molto in ospitalità con loro, e soprattutto ha fatto riscoprire anche il valore della vocazione, e se volete dei miei genitori, mamma operaia e papà invalido, che mi hanno inserito dentro questo gusto della solidarietà, dell'umanità, nella semplicità, nella dignità della povertà, che poi è entrata dentro come struttura esistenziale dentro di me in un modo molto apparentemente discreto ma capace di segnare. Me ne sono accorto ripensando un po' a tutte le esperienze, al grande dono che viene dagli altri, ecco. Un'esperienza, quella dei suoi genitori, contrassegnata anche da uno schiaffo. Sì, perché quando andai, mio papà era lo schiaffo della dolcezza, perché quando andai da adolescente, facevo l'istituto tecnico e decisi di rovesciare un po' la prospettiva di vita e di affrontare anche, andare in seminario, mi venne uno schiaffo dolce che diceva: ma insomma, qui tu sei qui, stai impostando lo studio, diventi un punto di riferimento per la famiglia. Ma dopo diventò uno schiaffo pieno d'amore, perché poi mi hanno accompagnato fino in fondo anche nei momenti più difficili della mia esistenza, di giovane che si preparava al sacerdozio e poi di prete che ha vissuto tutti gli anni della mia esistenza sacerdotale sul territorio con loro vicino. Ecco, una vocazione che è nata anche in famiglia, in cui si respirava religiosità. Ah certo, la religiosità popolare, la religiosità normale, quella che entra dentro di te, il rosario, la preghiera. E questo mi ha fatto, soprattutto attraverso questo libro, riscoprire che quei tassi anche di religiosità cosiddetta popolare, quel ritmo di preghiera che dopo culturalmente avanzati qualche volta che prendiamo le distanze, invece sono entrati dentro come struttura normale, semplice, io direi esistenziale, che non ha grandi discorsi, grandi paroloni, ma si comunica così, come faceva anche mia madre. E quindi l'ingresso in seminario, un ingresso un po' complicato anche per lo studio del latino, del greco, comunque difficoltà superate, l'obiettivo era già quello di essere un sacerdote al servizio delle... Sì, quello certamente, perché era poi da giovane, nell'ingenuità, però in fondo ho studiato quarta e quinta ginnasio da solo in 4 mesi, buttandomi dentro con l'entusiasmo di un adolescente che voleva comunque affrontare il disegno di entrare dentro il seminario per restituirmi questa grande voglia di restituire anche agli altri il senso dell'aiuto, e poi dopo ho scoperto che sono stati gli altri ad arricchire me più che io gli altri. E la prima esperienza è stata in parrocchia. In parrocchia, in un territorio evidentemente caldo come quello della Bovisa, in periferia, evidentemente gli anni erano 68-69, io ho detto messa nel 69, quindi si respirava tutto questo, con un quartiere segnato dal problema della migrazione dal sud, con le vie, col disagio sociale, con quel vento di cambiamento carico anche di ideologie che però mi ha assorbito molto. E questa è stata una delle esperienze che mi hanno costruito in tutte le sue difficoltà, perché io ho partecipato al clima di quegli anni vivendo questa attenzione profonda all'attenzione alle fasce più deboli, cercando di ricostruire anche legami sociali, ma sempre anche con una spiritualità interiore che mi ha sempre sostenuto anche nei momenti di difficoltà, dove era un po' più difficile. Ecco, anche la Chiesa ha vissuto dei momenti di difficoltà, di grandi tormenti in fondo interni, sacerdoti che hanno preferito buttarsi in politica, magari pensando che la soluzione fosse più la politica che non la fede. Sì, sì, e lì fu il grande momento di contraddizione, se si vuole. Ripensandolo, io respiravo questa dimensione politica del cambiamento, perché di fatto seguire, rompere l'assistenzialismo, stare vicino, per me era dentro nel sangue, ma dall'altra vedevo un po' una politica che si caricava molto anche di ideologia. E allora qui penso alcune letture, io penso, qui li cito, Don Milani con quello che voleva dire, col suo sistema di essere critico anche nell'appartenenza ecclesiale, ma estremamente obbediente anche su alcune dimensioni, il fatto di aver fatto scuola popolare, di aver portato dentro questo, l'esperienza dell'incontro anche col movimento sindacale che era lì in quegli anni, che ti dava il senso della mediazione, dell'incontro, dei problemi, e poi una dimensione di spiritualità, questa me la teneva mia madre lì, che mi faceva dire il rosario, mi faceva riscoprire il valore della preghiera, che poi si butta dentro in questo livello di turbinio che c'era in quegli anni, dove c'era anche questa passione mia che voleva stare in prima fila, evidentemente. Ecco, una persona di stare in prima fila, indubbiamente, però allora senza rinunciare a nulla. In fondo, buttarsi in politica sarebbe stato rinunciare forse a una dimensione spirituale, ritirarsi un po' sull'Aventino e rinunciare a incidere nel sociale. È possibile mettere insieme questi? Questo è stato sempre il canale, il crinale nel quale ho impostato sempre la mia vita. Da una parte con una vocazione alla socialità, al legame, alla quotidianità, al vivere con loro. Dall'altra cogliere che alcuni problemi non erano nell'aiuto, ma che bisognava interrompere anche l'assistenzialismo, quindi fronte alla dimensione politica, e come andare avanti a portare dentro però questa dimensione spirituale, che non era un intimismo separato, ma doveva essere cavato fuori dalla quotidianità, dagli incontri, poi gli incontri con le persone, perché lì mi hanno segnato gli incontri con le persone. Sergio mi ha insegnato che è questo tetraplegico, spastico, per esempio. Questa è la mia grande esperienza di fede, è quella, perché di fatto non volevo assolutamente credere nel buon Dio, diceva: se Dio c'è, mi ha fatto così. Quando siamo andati in vacanza gli volevo un sacco di bene, mi ricordo mia mamma il grappino alla sera che gli dava tenendogli il mento. In vacanza muore, io gli metto lì la mano sul petto, continuavo a dare al gruppo giovanile che c'era tanti messaggi, e l'ultima parola che mi ha detto è: mai avrei pensato questo, vado in un posto più bello e là vi aspetterò correndo. Per me questa è stata una rilettura, per certi versi drammatica e sofferta, però che la dimensione di fede qualche volta sta sotto le ceneri del vivere, dei nostri comportamenti, e quindi entra dentro quasi timidamente. Ecco, sto alla porta e busso, l'ho capito anche in quel momento. Però rivaluta tutta la realtà. Tutta la realtà e la capacità di amicizia e di relazione, perché il mio libro poi mi ha fatto palpitare sul grande dono delle amicizie, delle persone che mi hanno insegnato, non solo i genitori, ma le grandi donne che mi hanno accompagnato nell'esperienza, gli uomini, ma il senso dell'amicizia, quella calda, quella che quindi è fatta di sentimenti. Ha fatto il direttore della Caritas per molti anni. Dopo ho fatto 11 anni il direttore della Caritas, e quindi questo, lì era già nato l'incontro con quello che mi ha formato a una gioia ecclesiale, di servizio ecclesiale anche un po' più maturo, che è Cardinale Martini. Cioè Cardinale Martini, quindi un incontro con gli umili, ma un incontro anche con le grandi autorità. Martini ha cambiato anche il senso del senso dell'autorità, che era sempre un po' più complesso e turbolento. Quando gli scrissi una lettera mi giunse una risposta: vieni con me ad abitare 3 giorni. Per me andare in arcivescovado 3 giorni con Martini, che poi mi ha preso, mi ha portato al monastero di Viboldone per valutare insieme cosa fare, da lì nacque la mia esperienza di presenza con i disabili, i sofferenti psichici. Questo straordinario incontro con Martini poi mi ha accompagnato a tutta la mia vita di prete, di persona che vive la gioia, e io insisto, la felicità dell'essere con, per gli altri, accogliendo gli altri. Ecco, c'è questo percorso di felicità all'interno del assolutamente libro. Assolutamente sì. Che non è una ricerca, ma è quasi il risultato. Risultato, perché quando anche dico oggi si parla molto di volontariato, qualche volta lo si pone nel capitolo dei sacrifici, io lo metto invece nello straordinario discorso della felicità, della ricerca, del piacere di vivere col senso della gratuità. Incontri. Magnificat anima mea, magnificat domini. Ancora con la voce di Mina, con il Magnificat, il cantico di ringraziamento, riprendiamo il nostro incontro con Don Virginio Colmegna, attualmente pro tempore, possiamo dire, responsabile della Casa della Carità. Da quanto? E ormai è da 7 anni attivamente, da 9 anni, perché è il grande dono che mi ha fatto Martini. Prima di andare via io gli scrissi, c'era stata una donazione che era quella all'onestà Embriani, e allora gli dissi parte. Allora lui volle lasciare un posto dove si potesse ospitare gratuitamente le persone con tutte le difficoltà della sostenibilità, ma che diventasse un luogo dove si riscoprisse uno sguardo sulla città e la sapienza della carità, l'eccedenza della carità, come chiama. E da lì ho accettato con gioia, perché per me era la promozione andare a riabitare ancora, come avevo fatto negli anni di Sesto San Giovanni, ospitando le persone. È diventata questa straordinaria esperienza, cui io sono molto riconoscente, che Casa Carità è riconoscente dagli ospiti. Ecco, un'iniziativa che raccoglie anche molte esperienze diverse, molti aiuti diversi, molto volontariato mi sembra intorno a questa molto esperienza. Volontariato e molta professionalità, nel senso che abbiamo anche operatori, c'è un grosso legame, questo credo che sia la gioia, è un legame con le università, un legame con la ricerca. Abbiamo creato un centro di studio che guarda al mondo intero, l'abbiamo chiamato SUC con il responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. A dicembre abbiamo chiamato Kleiman, che è questo il più grosso antropologo, a riflettere insieme. Casa Carità è diventato un luogo anche di cultura significativa, in fondo anche la Bicocca, quando mi ha dato anche la laurea honoris causa in scienze ed educazione, non è stata data a me, è stata data questo percorso che stiamo facendo. Martini mi disse continuamente: la concretezza cava fuori però dai legami con la gente la capacità culturale, una cultura che nasce dal basso, dalle relazioni, dalla scoperta. Io ho lì persone che arrivano da 90 nazioni. Ecco, è cambiato molto negli ultimi anni, da quando ha iniziato la sua esperienza come parroco alla Bovisa, poi come responsabile della Caritas, l'abbiamo ricordato nella prima parte. È cambiata molto anche il mondo del bisogno, il mondo a cui si rivolge la sua attenzione. Certo, è cambiato molto e ha anche alcune costanti. È cambiato molto perché il fenomeno migratorio adesso è arrivato con la sua irruenza, con la sua... che non sono poveri. Io lì della gente che chiamiamo immigrati poveri, hanno 2 lauree, arrivano portando il dramma della loro terra. Ho lì insieme anche delle persone che hanno tanta sofferenza psichica. Su 100 persone accolte, più di 40 sono passate ai servizi territoriali sulla salute mentale. Non sono solo stranieri, in quest'ultimo periodo abbiamo lì tantissimi italiani, gente anche dal ceto medio, come si dice tecnicamente. Quindi, però dentro lì è diventata non l'ospitalità generica dell'assistenza, ci abito io, è una casa. E dentro vi è questo lavoro di cultura, c'è un posto che affronta il problema legale, l'aspetto sanitario e soprattutto la progettazione rispetto al lavoro. Il nostro sogno è che una persona che entra dentro lì nel giro di poco tempo, di 6 mesi come minimo, possono aver più bisogno di questo luogo di ospitalità, anche se è diventata una residenzialità che noi chiamiamo una residenzialità di natura affettiva. Può ospitare, appunto, ospita delle persone in senso stabile. Ospitiamo delle persone in senso stabile, arrivano, qualcuno esce a lavorare dalle 9 alle 5, vengono accolti, abitano certamente in una situazione di stanze, era un'ex scuola ristrutturata, un grande legame col quartiere, vengono gli anziani del quartiere, diventa una casa abitata da tanta complessità. Io lo dico sempre che l'agorà è possibile, cioè il vivere anche con tante diversità diverse. La prevalenza della religione musulmana, in questo momento abbiamo molti giovani, abbiamo alcuni minori che sono arrivati cosiddetti non accompagnati dall'Egitto, quindi ci riportano anche tutto questo tipo di riflessione. Abbiamo una biblioteca di confine, un luogo dove riflettere. Ogni ospitalità è un interrogativo, un'inquietudine spirituale anche, perché c'è una relazione con l'altro che ti cambia, ma anche culturale. Perché qualche volta la parola carità, con Cardinale Martini discutemmo, lui volle che si tenesse la parola carità, anche se assorbita dal linguaggio lomosiniero sembrava qualche altra cosa. Disse: la carità riempie la giustizia ma la spinge anche oltre. Cardinale Tettamanzi usò la parola della parabola del Samaritano dicendo: voi ricordatevi sempre del Samaritano, del Levita, del sacerdote, ma il caritato si dimentica il locandiere. Ecco, ma anche Benedetto XVI, il Papa, esatto, nella sua Caritas in Veritate, parlando di economia, usa il termine la carità nella verità. La Caritas in Veritate. Infatti la parola carità è stata ripulita e riconsegnata a questo linguaggio che assorbe la giustizia, assorbe la capacità economica, perché l'economia è anche una scelta di economia di gratuità. In fondo da noi è nata anche una capacità di impresa, c'è una cooperativa di lavoro, c'è Mister Catering che fa la mensa, che esce anche sul territorio, ci sono altre iniziative che crescono, perché facevano il lavoro coi bancali nei campi nomadi che abbiamo accolto e abbiamo trasformato in una cooperativa che lavora legalmente, sottraendola al mercato nero. Sono tutte piccole esperienze, io dico sempre, che fanno irrompere la buona notizia. L'intelligenza della carità ha bisogno di tanti racconti buoni e forse questa società ne ha bisogno tanto, partendo anche dalla Chiesa. Ecco, appunto, volevo chiedere, questa società, il mondo di oggi, un mondo così complesso, un mondo molto individualista in fondo, cosa può ricevere anche non solo per i diretti interessati da esperienze come questa della Casa della Carità? Ma riceve, innanzitutto deve ridimensionare, con dare il senso del limite, della precarietà, anche della loro esistenza, che si apre ad alcuni interrogativi di fondo. Io credo che il nascere, il morire, il soffrire, il guardare, affrontare anche le paure che abbiamo, entrano dentro in una grande visione dove la relazione con gli altri, il vivere i legami, il vivere la fraternità, la gratuità, la capacità di essere amati e di amare non sono parole slogan. Stanno dentro in questo luogo nei quali si guarda, ecco, anche la sociologia dice spesso i non luoghi, le vite di scarto, il Vangelo lo dice molto prima. Allora la condivisione, io ci abito insieme tutti gli spazi di cultura, di erogazione, è cresciuta molto anche la capacità di intuire. Certo, c'è un problema di sopravvivenza, perché il Cardinal Martini vuole la gratuità, che mi pone ogni anno drammatici problemi di sostenibilità, perché accolgo anche gratuitamente, il sostegno delle persone viene, forse è meno adeguato e meno sereno, ma però andiamo avanti, perché la gratuità mi permette di accogliere le persone in quanto persone, e accolgo quelli col permesso, senza permesso, che arrivano, e poi cerco di trasformare questa loro ospitalità in un'esigibilità di diritti, in una coerenza, anche in un rigore. Qualche volta soffro quando vedo che la parola solidarietà viene coniugata a buonismo. C'è una grande missione anche nelle situazioni più difficili, penso a quelli che vengono dalla popolazione rom, dai campi e altro. Noi il patto di socialità era con loro una mediazione sociale, non era abbassamento dei diritti, è rendersi conto che quando si lavora anche nelle situazioni difficili, il tema della mediazione, dell'attenzione, gli anziani del quartiere che vengono, che avevano paura prima, adesso convivono con questa presenza, hanno maturato uno sguardo diverso anche su alcune popolazioni, perché li trasformano in attenzione ai volti, a queste situazioni particolari. Ecco, ma all'interno del quartiere, della prossimità, non le rimprovano un po' di essere più attento ai musulmani che non ai milanesi? All'inizio c'era addirittura questa preoccupazione. Adesso no, primo perché ci sono tanti italiani, secondo quando dicono, arrangiandosi qui a Roma, li tenga lui a casa sua, io ce li ho a casa mia, quindi non possono dire anche questo. E poi sono stati gli anziani, vengono 70 anziani tutti i giorni, quelli da 70 anni in su, nella nostra casa. Hanno voluto questo tipo di presentazione. C'è Dudu, il grande senegalese operatore, dico in giorni anche che ricordano questo, che è il capofila di questa attivazione, e in dialetto milanese questi anziani le bravo anche se le neger, e questo voleva dire che hanno colto la grande dimensione della relazione. Vengono, ci sono lì i bambini rom che corrono, ci sono gli altri, eppure c'è questa simpatia rispetto alla casa, con tutte le difficoltà, no? Non è idealismo generico, però agli anziani noi restituiamo l'attenzione e la vicinanza, perché questi luoghi devono diventare luoghi che fanno popolare un quartiere. Il territorio, se è abitato, affronta anche le paure e vede della gente che è a servizio di tutti. Ecco, credo che questo sia lo sforzo da fare. Ecco, abbiamo parlato del libro Non per me solo, di Don Virginio Colmegna, Vita di un uomo al servizio degli altri. Quale capitolo vorrebbe aggiungere, magari tra un anno, a questo libro? Quale può essere il prossimo obiettivo? Ma il prossimo obiettivo è quello proprio di riconsegnare continuamente la maturazione che viene dentro anche a me rispetto a questo, di una maturazione dove mi sta venendo fuori sempre di più la dimensione, uso questa parola, da credente, ma anche dimensione contemplativa. Vi assicuro, non ho mai pregato così tanto come in questo periodo, perché quando mi hanno dato la cosiddetta laurea honoris causa, il mio tema era la pedagogia del chi ce lo fa fare. Io alcuni momenti mi metto in ginocchio la sera, in alcune situazioni non so che dire, se non consegnare continuamente questa esperienza che mi ritorna come senso di gratitudine. Ecco, spesso si parla di cattolici, di culture e altro, però io sto imparando che pregare è un grande accompagnamento se la tua vita palpita dentro queste quotidianità. Ecco, e a un giovane che volesse appunto impegnarsi nel sociale, cosa consiglierei? Di avere una grande passione, una grande capacità riflessiva, di incontrare l'esperienza, di avere la pazienza della quotidianità e della ferialità dell'operare. Chi sono i nuovi poveri, quegli italiani che appunto adesso si presentano alla sua casa? Sì, i nuovi poveri sono questi, sono gente che soffre umanamente, gente, io dico sempre, gli ultimissimi che avevamo sono ancora ultimissimi, hanno vissuto la crisi, adesso stanno arrivando invece delle persone che impropriamente chiamiamo del ceto medio, quelli che non ce la fanno arrivare al fine mese, che hanno una domanda qualche volta quantitativa molto grossa, penso alle relazioni frantumate, alle famiglie interrotte. C'è questo volto nuovo del disagio sociale che è anche un disagio relazionale. Ed è difficile far diventare opportunità anche queste situazioni di disagio, però è necessario. Difficile, è necessario e probabilmente hanno bisogno di un clima che non li accompagni nella loro sofferenza col buonismo, che li scuota qualche volta, ma gli faccia riaprire degli spazi di riflessione. Gli auguri di buon anno da parte di Don Virginio Colmegna. Buon anno davvero a tutti voi e soprattutto ricarichiamoci di questo grande sentimento di speranza, la speranza che viene cavata fuori anche dalle situazioni difficili e che diventa uno sguardo verso il futuro. Grazie, grazie a Don Virginio Colmegna, grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Valeria Bernardi in regia, Luca Cremonese e Stefania Tagliaferri in redazione. Buon anno anche a loro. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buon anno ancora.